sopra marcia, a muccia e con quattro franchi, ho mercato già cantare in apparsa girare il padel. No, no, no, capita giù, e insapori roba assato, e chi cazzo ci metto che ci butti, no, non ci credo. Thank you.